Amanda, facciamo poi fare un overdub, no? Me mare mega dito de non sposare rosse chiese tutte salta fosse chiese tutte salta fosse me mare mega dito de non sposare rosse chiese tutte salta fosse all'amor non le sa far. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Johnny Cash. Ah, era così? Johnny Cash. Ah, vabbè, tu e poi guarda che Johnny Cash, anche lui, anche lui, come molti altri, e come Pietro Lacorte fra poco, se non sta attento a quello che fa, è morto. Oggi è la 40ª puntata della seconda edizione del sesto mese del terzo anno dell'ultima grande cattività. Sismica. Quando Chiedo Asilo cominciò ad essere trasmessa in tutte le case del mondo. Ehi, Tito, ma Tito, no, Tito. Dai, era una bella introduzione. Sì, certo. Tornati che da su io hai ragione. Quindi benvenuti, avrete capito, ai 10 minuti di infantilismo quotidiano che Radio 24 vi offre, al quale voi ormai non potete più rinunciare in nessun modo. Magari fossero solo 10 minuti. 10 minuti, dai, che 15. Per gli ascoltatori sono 10 minuti, ma per noi l'asilo non chiude mai. Eh no, purtroppo no, è così. Anche quando c'è Cruciani che manda tutti a fare in beep. Allora, anche allora noi siamo qua all'asilo Stoppani, mica siamo a casa ad ascoltare Cruciani, che fa anche rima. Ok, qui siamo in mezzo ai bambini, invece che in mezzo a Cruciani, stiamo bene in mezzo ai bambini che ci danno tanti spunti per parlare di cose serie, tipo... E ora, bambini, ricreazione! Ricreazione, ma come? Mi spiace. Abbiamo appena cominciato, saranno passati 30 però secondi. Però è venerdì, quindi? E quindi niente, però è passato. Niente, pronto, Freddy? Sì, sono io. Chiamami ancora una volta, Sior, che metto giù, Sì, allora, ascolta bene. Il cuoco indiano. Per domani ho bisogno di un favore. Allora, mi confermi la doppia porzione di biryani? E la bottiglia di Kewa. Però un favore grosso, dovessi trovarmi un tavolino. Tavolino per due, appartato. Una posizione giusta, tu mi capisci che sei un uomo di mondo. Mi raccomando. Bambino Alberto. Dai, basta. Non puoi? Dovresti per forza. No, che sei biryani? No, allora. Metti giù quel telefono. Tavolino appartato. Tra l'altro è rubato quel telefono. Allora. Ha il telefonino rubato. No, è incomodato d'uso. Incomodato d'uso dalla tasca di un altro. La giacca, io già ho capito. Vabbè. È una posizione legale ineccepibile. Sì. Comunque, a parte questo, quello che io dico al telefono sarebbero affari miei in un paese civile. Vabbè, ma siamo in Italia, hai capito? Comunque, visto che siete amici, ve lo dico. Io mi sto organizzando. Domani ho il primo di una lunga serie di pranzi di lavoro. Pranzi di lavoro. Pranzi di lavoro. Già pranzi una parola. Allora, mi lasciate finire. Dai. Siccome sono incontri importanti e poi vi capirete perché, ho bisogno di, prima di tutto, riservatezza. E poi di fare bella figura, no? Sì. Quindi chiesto a Freddy, che è stato in un sacco di posti a lavorare, quindi sa come va il mondo, di preparare qualche specialità del suo paese, no? Sì. Quindi il biryani. Il biryani qui sarebbe riso. Riso preparato insieme a spezie, carne, pesce, verdure, tutto a piacere. Ma è tipo una paella. È un pastone. L'uovo c'è, l'uovo. Un uovo. Se c'è l'uovo, è uno. Un uovo a piacere. Va bene. E poi c'è il kewa. Kewa. Che è la bevanda pakistana, Sì, ma forse Freddy è pakistano. Freddy è pakistano, cingalese, di dove? No, cosa ne so io? Viene da quelle parti lì. Adesso. Sì, ma a parte il cibo, il pranzo di lavoro, voglio sapere. Che lavoro? Poi sei un bambino. Infatti, smettila di lavorare. Sei anche pigro. Cioè, allora, il pranzo, basta, pranzo, la colazione, basta. Ma voi proprio, mai una volta che mi prendiate sul serio. Allora, adesso vi spiego. Qui la situazione all'asilo, voi siete testimoni, sta diventando insostenibile. Qui i soldi non ce ne più, non ci sono fondi. Manca tutto, il personale, il materiale didattico. Il cibo! Che se non ci fosse Freddy, che a me mi importa qualcosa di straforo. Cioè, la direttrice dell'asilo si occupa solo di affari suoi. L'amministratore delegato, quale di me? Quale e direttrice? Più, visto che le sorti dell'asilo, quindi dei bambini, sono in mano a un manipolo di conservatori che sono appoggiati da tutti i genitori. Manipolo di conservatori. Quindi a questo punto su dei ciclostili, io ho deciso e prendo l'iniziativa. Invertiamo la rotta. Ma cosa fai? Sembri Bersani. Ma per farlo ho bisogno anche di una truppa. Una truppa cannellata, come si dice in politica, no? Cioè non è che posso andare avanti io. E quindi io devo cercare di avere dalla mia parte il maggior numero possibile di bambini consenzienti. Ma stai parlando di cibo pakistano. Una truppa cammellata. Sì, cibo caramellata. Una volta che ho tirato un numero considerevole di bambini a me, quindi ho guadagnato consenso. Allora propongo una mozione di sfiducia, no? Verso la direzione. Ma, vabbè. Cioè, mi sembra un'idea o no? No, assolutamente. Però, cioè, si occupa di cose serie, finalmente. Sì, però insomma, i bambini non hanno mica i rappresentanti nel CDA. Cioè, non riesco a capire come fai a presentare la mozione di sfiducia. Allora, quando ho raggiunto il numero, devo raggiungerlo, e lì si tratta di semplicemente corruzione. Come corruzione? Ricatto. O dossieraggio nei casi, in certi casi. Perché è cambiato? Cioè, corruzione e ricatto. Ma sì, allora il programma è questo. Ogni giorno invito un bambino a pranzo, no? Ma dove? Io fa un pranzo immensa col cibo di Freddy. Col cibo di Freddy, ok. Quindi pranzi speciali, no? Esotici. Sì. E li cucina Freddy. Ho capito, dai. Poi durante il pranzo, siamo lì, bla bla, come stai? Giochi bene a pallone. E poi intanto con nonchalance butto lì qualche promessa che non potrei assolutamente mantenere, no? Al bambino. A quel punto, promessa, tipo, il triciclo digitale, con robe così. Va bene, dai. Quindi, cose impossibili, ma quelle ci cascano. E a quel punto è fatta. Nel caso in cui la corruzione non dovesse funzionare, allora passiamo al ricatto. E qui entra in gioco l'arma segreta, Gildo. Ma io non ho capito, tu offri da mangiare a uno, gli fai delle promesse in cambio di cosa? Poi Gildo cosa c'entra? Per l'appoggio, no? Che mi dà l'appoggio per la futura mozione di sfiducia. Vabbè, ma Gildo. Vabbè, Gildo è il faccendiere, è il mio faccendiere. Beh, essendo insospettabile, è invisibile. Però lui gira per l'asilo, no? Orecchia di qua, intercetta di là, e capta qualche segreto che puoi utilizzare come merce di scambio, no? A quel punto sono una botte di ferro, no? O due colpi in canna. Cioè, se non funziona con la corruzione, parto con il ricatto. Perché a voi sembra strano, ma c'è anche gente che non accetta di farsi corrompere solo per darsi un tono di superiorità. Però guarda che roba illegale sta qua, Ma che illegale? Come no? È solo Star Warfare, no? Vedi. È un modo per risvegliare una coscienza civile. Sta imparando bene, un sussulto di responsabilità in chi non sa neanche cosa sia. Ma quale Star Warfare? Ma questi sono reati. Ma dove le hai imparate queste cose? I tuoi genitori le sanno? Ma lui legge, lo sa che tu fai, no, leggi, qui, la TV, l'ha detto la TV. Cosa ha detto? Qui, tramite loro. Allora, qualche giorno fa c'è stata una votazione in Parlamento, una roba thrilling, importantissima, sì, quindi i miei genitori erano lì a aspettare che ci fosse la sfiducia verso il presidente. E quindi c'era la diretta e mi ero obbligato a seguire. Ma come? A te? Ma poverino, ma dai, ma era noiosissimo. Noiosissimo! Facevano la conta prima di tutto, no? È una rottura di scatole gigantesca. A furia di guardare sono riuscito a cogliere qualche spunto interessante anche per me, no? Perché è tutto un gioco di bambini che entravano, uscivano, parlottavano tra di loro. Gente che se ne andava indignata dicendo che non votava, andava alla toilette e poi dopo qualche minuto rientrava e votava. Alla toilette forse trovava. Allora, dopo un po' dico, ho capito come funzionava. A quel punto ho avuto un'illuminazione geniale. Allora, lo faccio anch'io. Faccio il mio gruppo parlamentare di bambini. E quindi, visto che ho capito come si fa, devo avere un gruppo di bambini. E come faccio a convincerli? E non è che io ho delle idee da proporre. Quindi li inviti a pranzo e devo far come da me. Al cuoco Freddy di che fare, ti cucina i manicaretti. Che fa schifo, poi che esatto. Che fa schifo. Questi già siano tutti lusingati che li invito a pranzo, che c'è la cucina esotica. Ma tu vabbè, devi fare come lì in Parlamento, che alla toilette, dietro il tubo di scarico, trovavano una mazzetta che li convinceva a tornare a votare. Insomma, è una questione di mazzette. Lasci un Nintendo, gli lasci un telefonino, tanto tu c'hai in giro i telefonini rubati. Nintendo, se ce l'avessi... Intendiamoci. Comunque, alla fine, in effetti, il problema c'è. La corruzione non funziona quasi mai. Ah no? Quindi funziona praticamente solo col ricatto. Cioè, prima corrompi e poi... Gildo raccoglie dossier. Sì. E poi dopo il pranzo, se questo dice no, allora parte dossier. E butto lì la tipo, busta? Ti scaccoli quelle robe lì. Ti scaccoli? Hai bucato il pallone? Come hai bucato il pallone? Hai vomitato? Te la sei fatta addosso? Che hai detto che Mariangela è brutta e Laura non vuole fare il gioco della bottiglia? Ma cosa dici? Questi sono tutti i motivi per cui sei ricattato quando sei un bambino. Ricattabile, il sesso. Degli angeli, però. Gli angeli, qui no. Gli angeli, i nuovi angeli c'erano anche, vero? Com'è che faceva? Liu si stendeva su di noi. Beh, lui, no. Mentre ti chiedete te. Ciao. Sì, bravo, mio Alberto, ciao. Da chiedersi, e questa qui è la luna del sole, Liu. Si stendeva, Liu, si stendeva su di noi. Che poi su di... E mi guardava e voi andate qui. E voi, drago, Kappa, Liu, visto, Kappa... E voi sono andati via. E sì, perché il venerdì c'è la corta, c'è tutto il fuggi venerdì. Quindi anche loro, Capedrago, appena scuola la campanella, via. C'è già la macchina accesa fuori. Da 4 ore, e sono riscaldata, allora poi prendo un taxi. Yeah, io! Le la fanno con noi, Laura Faggin. Con noi, saluta Laura. Ciao Fiori. Pietro La Corte. Ciao. E anche quelli che sono con noi solo in spirito. Palermitano. Vabbè, bisogna dire tutta la scheda. Guido Gildo Bertolotti. Ciao, allora. Grazie. Alberto Caserini. Grazie. Tommaso Varvello. Grazie. Ci risentiamo la prossima settimana, da lunedì al venerdì, 16.45. Io vengo solo venerdì. Chiedo asilo a radio24.it. Sì, tutti sharing, tutti sharing. Siamo sharing. Le persone serie non ci sono. Mica la TV. Thank you and good night.